Steve a mis au point différents réservoirs. Statement, any minute from now. One nil up. E ci sono novità anche sul... Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile. Di Riccardo Chiaberge. Rieccoci, bentornati alla nostra finestra settimanale sulla cultura internazionale. Le promesse di Obama. Il presidente americano dal podio dell'ONU ci ha prospettato un futuro di pace, di cooperazione tra i popoli. Ma come credergli? Negli ultimi 25 anni non abbiamo visto altro che guerre, stragi, attentati, bombardamenti. E anche noi italiani questa settimana abbiamo dovuto ancora una volta piangere i nostri caduti in Afghanistan. Ma cosa scatena le guerre? È l'incompatibilità tra culture e civiltà che non si parlano e non si comprendono tra loro, come sosteneva Samuel Huntington? Oppure è l'economia, la povertà, il sottosviluppo il vero fattore scatenante? Di questo tema parleremo nella puntata di oggi della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il menù di oggi. Inghilterra, una mostra a Londra mette in luce il lato malvagio del pittore William Turner. Irlanda, buon compleanno Guinness, la celebre birra scura compie 250 anni. Francia, perché il gallo canta al mattino? La risposta degli etologi. Germania, quanto conta la cultura nel provocare le guerre? Uno studio tedesco smonta le tesi di Huntington. Russia, vietato mancare di rispetto alla memoria del regime sovietico, anche nel nome dei ristoranti. Inghilterra, i Beatles sono più importanti di Gesù, almeno su Google. Fatevi più in là, il meglio sono io, sono il numero uno non solo del mio tempo, del mio paese, ma degli ultimi secoli e di tutto il mondo. Quando leggo di un artista come di uno scrittore o anche di un politico, di un premier straripa e vuole fare il vuoto intorno a sé, è difficile poi farlo convivere con il resto dei suoi colleghi o dell'umanità. Ed è proprio il caso di un grande pittore, uno dei più grandi pittori inglesi, William Turner, nato nel 1775 a Londra, morto nel 1851, al quale la Tate Britain dedica una grande esposizione intitolata Turner and the Masters, Turner e i maestri, intendendo i maestri non soltanto quelli del suo tempo, i suoi contemporanei, ma anche dei secoli passati, perché pare che insomma quello che emerge da questa esposizione, ma anche dai rilievi del curatore David Solkin, è un carattere terribilmente competitivo di questo grande artista. Forse, insinua l'autore dell'articolo Arifa Akbar sull'Independent, forse dovuto anche alle sue umili origini, perché era nato in una casa proletaria sopra un negozio di barbiere a Covent Garden e da lì insomma aveva iniziato una carriera folgorante nel campo delle arti fino a diventare uno degli astri della pittura del suo tempo, ma pare che insomma, la sua competitività fosse feroce soprattutto nei confronti di John Constable, che in alcuni casi si trovò proprio in concorrenza con lui in alcune mostre organizzate per esempio dalla Royal Academy of Arts. Fu nel 1832 che Constable aveva dipinto un grande quadro, The Opening of Waterloo Bridge, l'apertura del ponte di Waterloo, al quale aveva lavorato per anni e che aveva dei toni di rosso molto forti che lo rendevano

Gianni Cunelli disse: guardate, anche io vi diffido di mettere una mia opera in quella mostra, perché non voglio stare in quella compagnia. Quella roba lì non mi interessa, io sono al di sopra delle parti. Mentre quello, un poveretto, un po' più in petizione, dice: come, me non mi ha messo, allora sono morto. E quindi sa, Cunelli si è comportato un po' stile Turner, diciamo. Cunelli si è turnerato, ecco. È comprensibile, tu in Cunelli devi turnerare. Perché è un grande, ecco. Noi li vogliamo così. Bene, noi li vogliamo feroci, convinti e cattivi. Della loro superiorità e pronti alla discussione. Bene, grazie ad Averio, a presto. Tanti versi, ciao. Alla prossima. E andiamo in Irlanda per festeggiare il compleanno di un marchio mitico, la birra Guinness, la birra scura, che compie 2 secoli e mezzo di vita. Infatti, a fondare l'azienda produttrice fu appunto Arthur Guinness nel 1759, 30 anni prima della rivoluzione francese. In qualche maniera di rivoluzione si trattò, ma rivoluzione benedetta, pensate, da un arcivescovo che era appunto il padrino di Arthur, che gli aveva lasciato in eredità 100 sterline, e con questa somma Arthur diede vita a un'impresa che ancora oggi ha i suoi cultori e in tutto il mondo. Tra l'altro, spiega un articolo dell'Independent, per versare una pinta di Guinness bisogna compiere una serie di complicate operazioni, cioè riempirla soltanto per 3/4 fino a che si formi una chiara linea tra il liquido scuro e la parte alta del bicchiere, conosciuta come appunto il collare del vescovo, e poi si riempie il resto. Insomma, un rito quasi religioso. E passiamo a un altro mito britannico. Sul Guardian leggiamo che i Beatles, proprio come aveva sostenuto a suo tempo nel 1966 John Lennon, hanno sorpassato Gesù. Beh, naturalmente soltanto in termini di contatti sulla rete, perché nell'ultimo mese, almeno in 5 giorni in settembre, le ricerche su Google con il nome Beatles hanno superato il nome di Gesù. Quasi una profanazione la considereranno tanti credenti, ma come si diceva una volta, non possiamo non dirci cristiani, probabilmente non possiamo nemmeno non dirci beatlemaniaci. La finestra sul cortile. L'America non ce la può fare da sola, ci vuole una nuova era di pace e di cooperazione, quanto ha detto il presidente americano Barack Obama all'ONU mercoledì scorso. Ma proprio di era di pace non si può parlare. Se noi guardiamo indietro agli ultimi 25 anni, al contrario, e anche dopo la caduta del muro di Berlino, i conflitti non hanno fatto che aumentare in tutto il mondo. Tant'è vero che c'è stato un famoso studioso, Sam Huntington, che ha teorizzato il conflitto di civiltà, The Clash of Civilization. E questo termine, questo slogan, diciamo, è entrato quasi nell'uso corrente anche per spiegare quella che è stata poi la strategia della guerra preventiva contro Al-Qaeda, contro l'Islam fondamentalista dell'amministrazione Bush. E però questo termine, questa analisi viene messa fortemente in dubbio da uno studio che è stato fatto in Germania dalla Fondazione Bertelsmann e dall'Istituto di Politologia di Heidelberg. Secondo questa indagine, le guerre che hanno insanguinato il mondo negli ultimi decenni sono dovute solo in parte a un fattore culturale, per esempio a conflitti di natura linguistica o religiosa. Tutt'al più questi fattori costituiscono un elemento di divisione nelle guerre civili, ma non nei conflitti, nelle guerre tra stati. Semmai gli elementi scatenanti, e sostengono gli studiosi tedeschi, sono da un lato il grado di sottosviluppo o di sviluppo economico diciamo rallentato rispetto agli altri paesi, oppure il numero di giovani maschi rispetto alla popolazione, che evidentemente fornisce, come si dice con un termine orribile, carne da cannone, insomma, per gli signori della guerra. Questi risultati di questa indagine però non convincono molti studiosi tedeschi. Per esempio Herfried Münkler sul quotidiano Tage Spiegel mette in dubbio questa definizione di conflitti, questa analisi sui conflitti, perché dice che bisognerebbe prima di tutto intendersi sul significato di cultura, che cosa intendiamo per cultura. E Michael Stürmer, un importante storico tedesco, sulla Frankfurter Allgemeine, sostiene che questo studio è mosso da una ideologia di correttezza politica e quindi pregiudizialmente contrario alla tesi di Huntington. E invece sostiene Stürmer che i critici di Huntington semplicemente non lo hanno letto attentamente, perché le guerre di cultura dai Balcani al Caucaso al Medio Oriente esistono davvero. Semmai, ecco, Huntington non era un neocon, non ha mai sostenuto che l'Occidente e gli Stati Uniti dovessero esportare con le armi la democrazia, anzi metteva in guardia l'amministrazione Bush, perché diceva: in questo modo facciamo esplodere una polveriera. Come intanto ci ha raggiunto al telefono il nostro ospite, che salutiamo, Lucio Caracciolo, benvenuto alla finestra sul cortile. Lucio Caracciolo, direttore di Limes e esperto di geopolitica. Ecco, Lucio, al mercoledì scorso abbiamo assistito tutti a questo importante, storico potremmo dire, discorso di Obama, però abbiamo anche visto proprio su quella stessa tribuna dell'ONU andare in scena un vero conflitto culturale con Gheddafi e Ahmadinejad, no? Che hanno fatto ciascuno il suo show contro le democrazie, contro Israele o contro addirittura l'ONU. Quindi di fatto abbiamo visto in atto un dialogo tra sordi quasi, no? Che si parla di linguaggi diversi, non ci si capisce. Beh, intanto quanto a discorsi storici, mi pare che in pochi mesi Obama ne abbia fatti parecchi, quindi dubito che lascino molta traccia nella storia. Per quanto riguarda poi la questione del dibattito alle Nazioni Unite, è evidente che ci siano culture confliggenti, in alcuni casi incompatibili, ma è anche evidente che ridurre l'interpretazione di un conflitto, di qualsiasi fenomeno sociopolitico, a un solo fattore o anche a due o tre fattori può servire, diciamo, per ragioni propagandistiche e mediatiche, ma non ci porta molto avanti nell'analisi dei conflitti. Io penso che tentare dei paradigmi universali per un fenomeno che si chiama guerra, ma che poi ha applicazioni tanto diverse nella realtà concreta, sia un tentativo tipicamente politologico ma poco storico. Insomma, la tentazione di avere un modello onnicomprensivo, onniesplicativo, che non spiega un bel nulla. Ecco, diciamo che il modello della storiografia marxista ha sempre teso a privilegiare gli aspetti socio-economici proprio nella genesi dei conflitti. In qualche maniera Huntington ha introdotto questo elemento culturale, insomma, che in qualche modo corregge quella impostazione. Sì, stiamo sempre parlando di universalismi, che sia certo. Il marxismo, che sia, come vogliamo chiamarlo, l'huntingtonismo, sono tentativi di ridurre ad unum questi conflitti, questi fenomeni, queste guerre che sono in corso, che sono state in corso, e cercare qualche cosa che le unisce fra loro. Io penso che sia molto più interessante studiare i singoli casi e capire come funzionano sul terreno, piuttosto che di immaginare un modello applicativo che funzioni per la Finlandia come per l'Argentina, per il Polo Sud come per il Messico. Parliamo di un caso specifico, che è un caso che in qualche maniera ci ha colpiti direttamente come paese, con i caduti italiani di Kabul. Ecco, come giudichi tu la situazione afghana, come ne usciremo e quando? Non mi sento di fare nessuna previsione, constato che siamo messi molto male, nel senso che c'è una totale mancanza di chiarezza per quanto riguarda gli obiettivi. Proprio in questi giorni Obama, dopo aver stabilito che c'era una nuova strategia per l'Afghanistan, ha detto che bisogna ristudiarla da capo. E se la potenza leader non sa quello che vuole, è difficile che lo sappiamo noi. tanto più nel momento in cui noi siamo lì soprattutto perché ce l'hanno chiesto gli americani. Se gli americani non sanno quello che vogliono, è difficile che lo sappiamo noi. Ecco, Farid Zakaria l'altro giorno in un'intervista sosteneva che bisognerebbe seguire più che l'esempio degli americani, che hanno fatto, secondo a suo modo di vedere, soltanto dei disastri con il modello dell'esportazione della democrazia, l'esempio degli inglesi che cercavano gli accordi con le tribù, quindi trattare con i talebani più che cercare di creare una democrazia di stampo occidentale. Sì, ma anche qui l'idea che esista un modello universale di tribù e un modello universale di trattativa con le tribù è abbastanza vago. Tu tratti in un modo con una certa tribù del Panjshir e tratti in un modo totalmente diverso con una certa tribù dell'Era. Le chiamerai sempre tribù perché fa parte della nostra visione antropologica, ma si tratta di realtà, di culture spesso molto diverse fra loro. Certo, quindi non c'è una ricetta unica, bisogna purtroppo osservare questa complessità del mondo in cui ci troviamo senza affidarci agli slogan nemmeno degli uomini della provvidenza come Obama, sul quale mi pare che anche Caracciolo abbia espresso un certo scetticismo. Noi ringraziamo Caracciolo, buona giornata, presto. Grazie a voi. Ormai vivendo in città ce ne siamo quasi dimenticati, ma quante volte in campagna ci è capitato di maledire il gallo della fattoria vicino che ci svegliava all'alba? Ecco, ma perché i galli cantano così forte al mattino, si domanda Jean-Luc Nautier sul Figaro. E ovviamente non c'è soltanto il gallo che canta, molti altri uccelli appena sorge il sole si mettono a cantare, ma certamente il suono del gallo è particolarmente forte, si calcola che sia intorno ai 50-60 decibel, un po' meno di un camion che arriva a 70 decibel o di un aspirapolvere tra i 65 e i 75 decibel. Comunque tranquilli, cioè anche se non ci sono galli o camion intorno, in una stanza normale, anche con le finestre chiuse, un certo rumore di fondo c'è sempre. E poi, in ogni caso, meglio un gallo che la suoneria di un telefonino. E andiamo in Russia, sulle colonne del Moscow Times c'è una curiosa notizia su un ristorante di Mosca lungo la Leningradsky Prospect che si chiamava Antisovietskaya o Antisoviet e che per ordine del prefetto ha dovuto togliere l'anti davanti al nome ed è tornata a chiamarsi Sovietskaya. Evidentemente il comunismo è crollato da 20 anni, ma resiste nelle insegne dei ristoranti. Speriamo che nel menù non ci siano piatti a base di bambini. E per oggi è tutto. Ringrazio Daniele Casagrande, Vittoria Mussini in redazione, Pietro Lacorte in regia. Riccardo Chiaberce vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.